Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto de Drago. Eh sì, un saluto de Drago in spagnolo. Ma che spagnolo è? Ma cosa fai vestito di alpaca? Sembri un andino, Drago. Certo, è un omaggio allo stile etno-chic. Sai l'etno-chic di Evo Morales, il presidente della Bolivia? Perché? Perché è un eroe dei bambini ormai, dopo il calcio nei coglioni che ha tirato l'avversario durante una partita benefica a Bogotà. Benefica mica tanto. Sì, però era molto sentita come partita, perché in campo c'era la squadra del governo guidata dal presidente Morales e la squadra dell'opposizione guidata dal sindaco di La Paz, Luis Revilla. Una bella partitona. E certo, a gioco fermo, mentre l'arbitro faceva finta di non vedere, Morales si è avvicinato a Revilla e gli ha mollato una ginocchiata tremenda. Ah, ginocchiata, quindi non un calcio. Una ginocchiata, dalle immagini si vede così. Quindi, bambino del mese è sicuramente il presidente Morales, che si è anche giustificato alla TV dicendo che la colpa è dell'arbitro che prima non aveva fischiato un fallo di Revilla. Sentiamo il presidente Morales. Claro, tampoco io tanto ci arriva la colpa dell'arbitro. Con il lato che la pelota, l'arbitro sta destinando la pelota. Ecco, sentito? Ma cosa? Arbitro e pelota. Vabbè, insomma, un esempio fantastico di leader sudamericano da barzelletta, era lui. Sì, Morales è il Maradona della politica. No, Morales è proprio come se Maradona si mettesse a fare politica. È diverso. Perché io con voi sarò sempre, sempre lo stesso Diego il napoletano. Un bacio per tutta la gente. Maradona però, A sentire Maradona mi è come venuta voglia di un richiamino. Cosa dici, K? No, un richiamino di... Eh sì, il nostro talent show continua. Purtroppo la sfida tra Dini e Seba vede ancora in vantaggio Seba. Ale. Sì, ma Dini si può rifare con il suo stile emo, con cui questa settimana ha interpretato Paradise City dei Guns N' Roses. Take me down to Paradise City. Green and the girls are pretty. Sì, vabbè, però questa versione è un po' cosa, così. Ma esprimiti, cosa così? Anche il nostro giudice Morgan, che è sempre fan di Dini, questa settimana non è stato tanto convinto. Paradise City devo dire che è banalizzata. Forse sì, mancava forse la chitarra di Slash fuori, sì. No, non è vero, mi piace, però c'è troppo riferimento ai Velvet Underground. Sì, purtroppo i Velvet, se c'è il vibrafono. Vabbè, c'è una canzone. Comunque di anche Velvet Seba, Drago, anche Seba non è che abbia convinto col suo pezzo sta settimana. Ma come? Ma guarda che Io voglio avere la moto ha raggiunto dei vertici inarrivabili, senti qua. E io voglio avere la moto, appena ce l'ho già, la voglio più bella, la voglio il paoletto. Vabbè, però il testo è buttato lì, dai. Ma no. Come cosa? Ah, vabbè, dai, anche Morgan dice che Seba è un fior d'autore. È un autore assolutamente degno di questo nome, perché... Con gli autori che ci sono oggi. Mi sembra che abbia un linguaggio fresco e soprattutto immediato, urgente. Ma la vera cosa urgente è quella di votare per Seba o per Dini mandando una mail a chiedoasilo@radio24.it. E ora, bambini, ricreazione. Oh, thanks God it's Friday. Vabbè, 1979. Beh, precisamente. Comunque, Drago, venerdì, ricreazione uguale weekend, sempre più vicino. Vabbè, quindi sì, però, thanks God it's Friday. Sforzati, capa, di star buono ancora 5 minuti. Dai, adesso dobbiamo intervistare qualcuno. Chi? A caso, il solito. Lasciami indovinare, l'unico bambino che se ne sta in disparte. Eccolo lì, il nostro bambino Alberto. No, oggi zitti, per favore. Cosa? No, che c'ho i problemi, dai. Problemi. Sto facendo lo sciopero della fame. Beh, mica stai facendo lo sciopero della parola. Sei in silenzio stampa. No, quindi chi se ne frega dello sciopero della fame? Parli con noi. C'è dei problemi, però. Ma non ho voglia, dai. Poi mi viene fame a guardare voi, dai. Perché? A guardare noi. Puoi parlare, mi viene fame, dai, basta. Vabbè, ma perché stai facendo lo sciopero della fame? Allora, se lo fai... Sempre novità. Sto protestando. Sto protestando contro i piatti interregionali della mensa. No, ma gli interregionali sono dei treni. Sì, quindi hanno smesso coi finocchi cotti, non ho capito. Magari finocchi cotti. Come? Ma magari ci fossero ancora i bei finocchi cotti di una volta. Beh, allora è un avvenimento questo qua. Hanno fatto qualcosa che ti piace ancora meno dei finocchi cotti. Beh, l'anduia col pesto, per esempio. Cos'è? L'anduia. L'anduia, quell'impasto di carne di maiale e peperoncino, no? che è un piatto calabrese. Certo, sì, l'anduja, l'ho già sentita nominare. Dicono che sia anche molto buona, quindi perché si deve... Ho capito, ma qui ce la danno condita col pesto? Ah beh, allora che schifo. Che schifo sì, fa schifo veramente. Solo che qui ti obbligano a mangiarla, come la solita storia, che la, se la solita stordentona, perché lì come un corvo dietro, tu magari esiti, no, col cucchiaio, che dici, no, l'anduja col pesto, e lei, mangia, ti vedo, mangia. Eh no, allora basta, allora faccio la sciopero della fame. Vabbè, scusa, cos'è saltato in testa ai cuochi della mensa per fare l'anduja col pesto? Allora, è successo che un bambino ligure e un calabrese hanno litigato. Sono voluti alle mani, gli insulti, è tutto degenerato. Vabbè, cosa c'entra? Allora, qui l'organizzazione, cioè Sordentona e Company, ha deciso di fare una specie di riappacificazione pubblica, no? Quindi in mensa hanno deciso di fare un piatto che riunisse i due piatti regionali, no? Sì. Il piatto calabrese e il piatto ligure. Vabbè, sì, mi sembra la solita pagliacciata all'italiana, tarallucci e vino, nduja e pesto, finisce tutto così, si sì, menano. Solo che adesso, e questa è diventata una consuetudine, e perché ormai i cuochi della mensa non fanno altro che andare in giro tutto il giorno a vedere cosa succede. È sempre a vedere i litigi, no? Ma come vedere i litigi? Altro giorno, per esempio, un pugliese e un cinese, poi se ne sono date di brutto, No, non voglio pensare, E allora poi quel giorno lì, il giorno dopo, ci siamo mangiati le orecchiette di soia in salsa piccante. No, vabbè, le orecchiette no, non si può. Ma scusa, ma se due milanesi litigano, almeno mangerete una cosa normale. Vabbè, lì c'è il risotto alla castella, quello standard. Allora fai bene a protestare. Ah, perché? Il couscous al barolo con l'asparago del Monferrato? No, vabbè, ma allora queste sono proprio delle schifezze, scusa. La pastiera napoletana. Buona. Sì, barocco, radicchio trevigiano, Vabbè, ma scusa, ma... Siamo d'accordo con te, anzi, se vuoi ti aiutiamo, Drago, facciamo con lui lo sciopero della fame. No, vabbè, io ho fame, ma no, ho fame, ma però adesso... no, basta che non litighino il trevigiano col napoletano, o che ne so, il cinese oggi, col barese, dieta, poi lascia stare, tutto bene, niente, ma come dieta? No, dai! Allora, preferisci dei pizzoccheri alla bagna cauda? Ma no, ma cosa... Un piatto come simbolo, no? Un segno di pace tra un valtellinese e un sabaudo. No, guarda, io preferisco vivere, grazie Albertuccio, mangiateli pure tu. Allora, il maialino salto al forno, ripieno di anguilli di comacchio marinate. No, no, grazie, sciopero della fame. Anch'io, sciopero della fame. Sciopero della fame. Però le anguille marinate... Voi vi siete ingrassati, voi vi siete ingrassati. Madonna, lei è un uomo che mi fa orrore. Chiedo asilo! Oh, è finita, adesso weekend. No, non ancora, capa, mi dispiace, c'è la novità. Cos'è? Il predicozzo di Suordentona. No, il predicozzo no. Stai zitto che comincia, guarda. Cari bambini, ognuno di voi, per quanto ancora giovane, per quanto ancora novello della vita, ha sempre il suo cumulo di amarezze e di disinganni. Ma che palle. Fai silenzio. Il fanciullo dischiude alla vita la sua mente piena di illusioni e crede di trovare ovunque la gioia e il sorriso. Ma porta sfiga, secondo me. Ma tosto sul suo capo, ancora ricciuto e biondo, si accumulano i primi dolori. Ma sì, ma chi se ne frega? Aia! Ma cosa? Aia! Aia! Ma cosa? Aia! Ecco, questi sono i primi dolori. Ma era Kappa, che stava parlando. Vabbè, ma tu sei ricciuto e biondo. Ma non è vero. Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, Kappa, andiamo via. C'è il predicozzo, ascoltalo, no? Esercitare il vizio può sembrarci più dilettoso. Questo è per te. Ma trascorso il primo attimo d'incanto, noi ci accorgiamo di aver spezzata per sempre, irreparabilmente, la nostra esistenza. La nostra calotta cranica. Resistiamo, dunque, alle tentazioni lusinghiere del male e difendiamo gelosamente il tesoro della bontà e della virtù. Oh, finito? Aia! Aia! Aia! Aia! Ecco, adesso ho finito. Andate in pace. Ma perché bastona a me se sei tu che disturbi? Perché sei ricciuto e biondo. Ma non è vero! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma basta! Lunedì e tiratici due bastonate su chiedoasilo@radio24.it.